il governo apra un tavolo con tutti i soggetti che vivono nel mondo della scuola, in qualche misura con la sfida di tutti a fare innovazione, però con questo vincolo: ogni soldo che viene risparmiato deve restare nella scuola. Non si possono togliere 8 miliardi alla scuola italiana.